portare fra casa tua di nuovo, eh? A svegliare quella grande bagassa a mano tua. O vuoi che dico piazza Bottego numero 3, eh? Via Bottego numero 3, famiglia Sanna. Vuoi che dico questo? Il 24334. Quella grande bagassa mamma tua! Quella grande bagassa mamma tua! Che roba, no? Tanto ormai mi metto d'accordo con una persona e tu hai finito. Divertiti stanotte. Ciao. E giocati. E tanto lo dovrai attaccare il telefono, coglione. Più fai che da domani ti scusa il telefono tutto il giorno. E a quell'altro frosso di Maculino Condo. Però lo fai il 24 3364 di nuovo. A svegliare quella bagassone tua madre.